si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. La rappresentazione del prossimo referendum come il giudizio universale è inopportuna, irrealistica e fuorviante. Tanto quando si vuole dimostrare che questa riforma sarà la panacea di tutti i mali, così come quando si prospetta la fine della democrazia se la riforma verrà approvata o la catastrofe se verrà respinta. La legge elettorale va cambiata perché è pessima ed è incostituzionale. Fu imposta con un voto di fiducia e si disse persino che era la più bella del mondo. Adesso tutti vogliono cambiarla, anche alcuni di quelli che l'hanno sostenuta. Buonasera a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, 18 e 37 minuti, stiamo insieme fino alle 20, 800 24 00 24. Il presidente del Senato Grasso butta acqua sul fuoco sulla riforma del Senato, non è la panacea di tutti i mali, e quindi un messaggio a Renzi. Intanto si celebreranno a Verona le prime nozze gay, la nemesi di Tosi, sindaco ex leghista, paraleghista, vedete voi, che sarà lui a celebrare le prime nozze gay a Verona. Vi aspettiamo, 800 24 0024. Perché io più che prendermela con Erdogan, me la prendo con i suoi amichetti, pagati e complici, con Renzi, con la Boldrini, con la Merkel, con i reggicoda del regime turco che nel nome del denaro e dell'immigrazione fanno affari con quello che è un dittatore che dovrebbe essere cancellato dalla faccia della terra. Facce dovrai lottare, baby. Questa è la realtà di una grande nazione. Dopo tante primavere bidone, ora una vera rivoluzione. Quasi 100 anni da Ataturk, la Turchia torna a essere una grande nazione musulmana di fatto e di diritto. Sono parole scritte da Hamza Roberto Piccardo, un rappresentante della comunità musulmana in Italia, che fanno discutere. Buonasera Emanuele Fiano. Buonasera. Deputato del PD. Fiano. Per alcuni dentro e fuori la Turchia, evidentemente anche fuori dalla Turchia, dentro la Turchia forse è più giustificabile che dopo il colpo di Stato fallito, sventato da parte di Erdogan possa fare più o meno tutto quello che vuole. Il ritorno della democrazia, il trionfo della grande nazione turca. È una tesi ammissibile questa secondo lei? Ovviamente no. Infatti per poterla realizzare Erdogan ha dovuto derogare, cancellare la Convenzione Europea dei Diritti Umani, quindi mi pare evidente che per fare quello che sta facendo calpesti elementi, principi, norme elementari della struttura della democrazia come noi la concepiamo in Occidente da qualche tempo, diciamo così. L'idea che possano essere curati dei magistrati, cioè quel potere che nei sistemi democratici è autonomo rispetto al potere legislativo, a quello esecutivo, è una caratteristica dei percorsi di formazione delle dittature. Altrettanto valga per la epurazione degli insegnanti altra caratteristica di libertà dei sistemi democratici o anche dell'attività che si svolge verso i giornalisti, cioè verso quell'elemento fondamentale di critica interna alle democrazie. Sono tutti segnali di una drammatica involuzione, oltre che, come si legge molto bene dalle parole di Amsa Davide Riccardo, sì. Oltre che come dire, il sancire la fine del percorso iniziato 100 anni fa con Ataturk, cioè quel percorso che per il mondo è stato un esempio sfavillante della possibile convivenza tra fede e laicità dello Stato in una nazione araba. Però è una situazione senza precedenti questa, Fiano. Un paese come la Turchia, che sta all'interno della NATO, dove c'è stato un colpo di Stato fallito, adesso una reazione come questa. Formalmente la democrazia non viene sospesa, ma come diceva giustamente lei, le violazioni dei diritti umani sono tantissime. Come si mette la situazione sul piano internazionale? Cosa dovrebbe fare, per esempio, cioè questo è un alleato degli Stati Uniti, un alleato della NATO? Ma io credo che lo abbia detto abbastanza bene oggi il ministro Gentiloni in un'intervista al Corriere della Sera, cioè il nostro giudizio, insomma, il giudizio del governo, io penso della grande maggioranza degli italiani e degli europei, su quello che succede è unanime. Questo pone una evidente... Ma come lo definisce lei quello che sta succedendo? A sua volta un colpo di Stato, una forma di repressione? Oggi per esempio è stato detto che dei processi verranno celebrati, non tribunali speciali ma tribunali normali, tribunali ordinari ad Ankara. Beh, è un giudizio che è difficile dare per tutti. È un giudizio che si può aggiornare di giorno per giorno, perché bisogna capire se la reazione violenta di... dopo il golpe di Erdogan, diciamo, rimarrà nel tempo o se si tempererà nei prossimi giorni. Beh, mi sta dicendo appunto il fatto che i processi verranno celebrati e non ci sarà una giustizia sommaria. Però questo è un annuncio, questo è un annuncio. Sì, sì. Sappiamo che gli annunci del governo Erdogan sono molto ambigui, vengono dette delle cose e poi fatte altre cose spesso. In questo momento la Turchia non è in uno stato di democrazia. Esattamente la gradazione della distanza tra la democrazia e la situazione odierna della Turchia o tra quella odierna e una dittatura è difficile da misurare, siamo in un percorso di mezzo, sono sospese molte delle caratteristiche di libertà tipiche delle democrazie occidentali. Senta, però lei ha avuto una polemica con chi ha scritto queste frasi, Hamza Piccardo col figlio Davide Piccardo, però c'è un problema a questo punto, perché questo, per esempio, Davide Piccardo è il presidente delle comunità islamiche di Milano, Milano, ed è un interlocutore istituzionale, per esempio del comune di Milano, lo è stato fino ad oggi. Il fatto che abbia questo tipo di posizioni può essere, è un problema secondo lei? Per Milano, dico, sì, per secondo me è un problema. Sì. Guardi, la mia posizione è abbastanza chiara, anche se ripercorre strade già avviate. Io penso che serva la firma di un'intesa tra le comunità islamiche. Davide Piccardo rappresenta un'associazione di comunità islamiche milanesi, non tutte, così come anche il padre rappresenta una parte. Comunque, che serva un'intesa tendenziale tra le comunità islamiche e dello Stato italiano, e che questa intesa debba essere sancita. Ci provò a suo tempo Giuliano Amato con il governo Prodi, questa intesa debba essere sancita attraverso la sottoscrizione di un patto, sì, che riguarda un manifesto di principi e di valori. In assenza di questa intesa, secondo me, questa è la mia opinione, risulta difficile poter siglare degli accordi di collaborazione che riguardano anche la realizzazione di moschee. Io penso che vada salvaguardato un articolo molto importante della Costituzione, l'articolo 19, quello che sancisce sicuramente il diritto di fede, ma è anche vero che noi abbiamo il dovere di stabilire dei principi e delle norme che secondo me devono far parte dell'intesa generale. Ora, se lei mi chiede se il fatto di avere opinioni come questa, come quella che ha espresso Hamza Piccardo, cioè di esaltazione dell'inizio di una dittatura, sia preclusivo, diciamo così, della possibilità di realizzare. Breaking news. Ci sono purtroppo cattive notizie che arrivano da Monaco di Baviera, per la precisione dal quartiere di Mosach, nei pressi dell'Olympiazentrum, dove in un centro commerciale ci sono stati spari. C'è una situazione in questo momento molto confusa e una vasta operazione di polizia. Si parla di feriti, mentre il quotidiano Abendzeitung, il quotidiano di Monaco di Baviera, parla di alcuni morti. Si diceva prima 15 morti, ma ci sono sicuramente alcune vittime. Parliamo quindi del centro commerciale Olympiazentrum, nei pressi del villaggio olimpico di Monaco di Baviera, e l'operazione di polizia è ancora in corso. Non è ovviamente al momento chiaro cosa sia successo, si sa solo che ci sono delle vittime e ci sono degli spari. Maggiori aggiornamenti ovviamente nella prossima edizione di GR24. Fiano, non so se lei deve prendere un treno tra pochi minuti, se ha ancora un paio di minuti per restare con noi. Ok, allora aggiungiamo dopo la breaking news anche una piccola pausa sul traffico e poi torniamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, sempre in collegamento con l'onorevole Emanuele Fiano, onorevole del Partito Democratico. Senta, voglio tornare su questa questione, perché sul dialogo tra una parte delle comunità islamiche, le comunità islamiche e la politica, recentemente c'è stata una questione anche all'interno del suo partito, del Partito Democratico a Milano, perché Mariam Ismail, non sto a spiegare chi è per chi non conoscesse questa storia, ma insomma se n'è andata dal Partito Democratico dicendo che avete scelto di dialogare con la parte più conservatrice e integralista anche dell'Islam in Italia. Oggi le dichiarazioni come quelle di Piccardo, che dicono sostanzialmente Erdogan faccia più o meno quello che gli pare in Turchia perché è il trionfo della democrazia, forte del consenso popolare ma incurante di tutte le violazioni dei diritti umani che ci sono evidenti in Turchia in questo momento, è la dimostrazione che c'è un errore di prospettiva, che si è scelto di dialogare con le persone sbagliate nell'Islam in Italia, anche da parte del suo partito? Ma intanto vorrei segnalarle che Sumaya Abdelkader in questi giorni sulla vicenda della Turchia ha detto, e oggi stesso anche in un'intervista sulla Post, cose molto diverse da quelle che io ho citato ieri, che riguardano le affermazioni di Ansar Riccardo e anche dei giovani musulmani. Sumaya, consigliera comunale del PD islamica, anche lei è entrata in polemica appunto con Mariam Ismail, sì. Sì, che c'è la parte che appunto Mariam Ismail ha criticato di nostro rapporto con l'Islam. Io penso che il Partito Democratico debba essere la casa della possibilità di dialogo, ma di durissima critica, come faccio io quando il dialogo dimostra che la controparte non condivide gli stessi principi nostri. Non è in questo momento il caso di Sumaya Abdelkader, che comunque è stata eletta in Consiglio Comunale. Io penso che Mariam Ismail, della quale sono amico, faccia male abbandonare questo partito, perché il suo apporto critico sulle vicende dell'Islam, tra l'altro Mariana ha una vicenda tragica perché il fratello è stato ucciso da estremisti islamici in Somalia, deve rimanere con noi per mantenere altre sue posizioni. Come si vede da quello che io ho detto ieri, che è uscito oggi sui giornali, io sono un esponente della segreteria nazionale del PD, c'è posto per esprimere le critiche e affrontarle a viso aperto. Guardi, oggi ho incontrato in una televisione Davide Piccardo e non ho certo lasciato passare nessuna critica. Dopodiché, quello che credo sia giusto osservare è che un partito politico con la nostra responsabilità, ma anche se fosse un altro partito politico che ha responsabilità di governo della città o del paese, noi questo tema dei luoghi di culto per l'Islam dobbiamo affrontarlo. Dobbiamo affrontarlo con chi condivide con noi, secondo me, principi inviolabili come quello dei diritti umani. Ed è per questo che io suggerisco che un tavolo di confronto nazionale stabilisca finalmente la possibilità di firmare un'intesa. L'intesa si firma quando le controparti condividono un manifesto di valori, tra i quali sono le cose di cui stiamo parlando. E in particolare, per concludere, sì? Io penso che debbano essere capaci i rappresentanti delle comunità islamiche di separare la fede dalla politica. Se loro, come è il loro diritto sacrosanto che difenderò fino alla morte, sono rappresentanti delle comunità di fedeli musulmani che giustamente, secondo la nostra Costituzione, hanno diritto a pregare e a chiedere a noi di consentirli la realizzazione di luoghi di culto più dignitosi di quelle decine di luoghi indegni dove spesso pregano negli scantinati, questo saremo con noi a difenderli. Ma se oltre alla preghiera e al culto in questo viene mescolata la politica, allora personalmente mi troveranno sempre contrario. Senta, soprattutto se la politica è quella che difende oggi Erdogan. Per concludere, per tornare alla Turchia, fino a che punto l'Europa, l'Italia in particolare, può assistere agli arresti, decine di migliaia, sospensioni, licenziamenti di insegnanti, magistrati? Ieri è stato fermato anche un giornalista italiano, per qualche ora sono stati arrestati altri giornalisti. Al di là delle dichiarazioni che lei ricordava del ministro Gentiloni, anche l'America ha detto, invitato la Turchia a rispettare, a restare nei limiti, eccetera, eccetera. Ma fino a che punto si può assistere a questa situazione senza fare qualcosa? Si può arrivare a pensare di ritirare l'ambasciatore o all'orizzonte potrebbe esserci anche una richiesta di sanzioni? Secondo lei si può pensare a qualcosa del genere o no? Lei mi fa una domanda difficile. Nella storia, diciamo, la sticella che sta tra la realpolitik e l'inviolabilità di alcuni principi si sposta. Io penso che l'Occidente stia osservando fino effettivamente a quale punto si spinge la repressione, bisogna chiamarla così, di Erdogan, per capire se effettivamente questo paese, che a prescindere dalla nostra volontà ha un ruolo decisivo sia per la sua posizione geografica sia perché un tempo era un terreno di convivenza tra laicità dello Stato e religione, quindi è sempre stato ponte tra Occidente e Oriente, ha un ruolo nella guerra al califfato islamico, oggi ha un ruolo anche sull'immigrazione, come lei sa bene, perché tiene dentro i suoi confini 1,5 milioni di profughi siriani, ha ricevuto soldi dall'Europa per riceverne altri milioni. Siamo legati, siamo legati mani e piedi, questo sì, però... Fino a che punto bisogna decidere, fino a che punto si può tirare la corda che lega il suo ruolo alla possibilità di soprassedere fino ad un certo livello di calpestamento dei diritti. Secondo me siamo molto vicini ad un punto in cui bisogna pretendere immediatamente la restituzione dei diritti al popolo turco. Vedremo, nei prossimi giorni vedremo. Grazie Fiano, buona serata, grazie. Buona serata. 800240024, Ciro da Trento. No, è caduto? C'era Ciro da Trento? No. Abbiamo Soran che chiama da Roma, buonasera. Buonasera. E niente, faccio due piccole considerazioni. Il primo, sostanzialmente, da quando è caduto il muro di Berlino, quindi, come dire, crollato l'equilibrio internazionale, ancora non abbiamo un altro equilibrio che in qualche maniera abbia sostituito quella. Quella cosa ha portato? Ha portato in qualche maniera tutto quello che era nella pancia, in questo caso della Turchia, è uscito fuori. Quella Turchia che spesso, io lo vedo anche in modo romantico, viene descritto come un paese liberale e democratico, ma non lo è stato mai, perché intanto il discorso dell'Islam era imposto di legge che bisognava la donna non fossero veli e così via. E quindi però nella sostanza, come vediamo, la DNA è rimasto. Dall'altra parte, quel Atatürk, tanto amato, non è altro che un uomo che ha costruito una base di razzismo panaturco e discriminatorio per tutti questi anni. Basta pensare ai armeni e ai curdi e a tutti gli altri che sono stati. E questi giudici che oggi stanno finendo in galera non sono altro che quella gente che ha messo tutto quello che era diverso del turco, tutto quello che era diverso dal potere. Va bene, la storia della Turchia è complessa, sicuramente. È vero che durante il periodo di Atatürk, grazie, buona serata, però non possiamo ripercorrere adesso, ci sono state c'è stato un grande nazionalismo che ha sicuramente preso di mira le minoranze, come quella armena, ma anche i greci che stavano in Turchia e altri. Abbiamo di nuovo Ciro da Trento, buonasera. Buonasera. Prego. A tutti, scusate. Niente, io mi volevo lanciare al discorso della legge elettorale, no? Hanno fatto tanto per averla, colpi di fiducia, la più bella del mondo. Adesso vedono che i sondaggi danno in testa il Movimento 5 Stelle e la vogliono cambiare. E tutti correre a cambiarla, no, perché così è la... Cioè la gente è stufa di perdere tempo dietro alle loro beghe, la gente ha bisogno di altro. e di che cosa? No, ha ragione, ha ragione. No, però la legge elettorale è una riforma vera, al di là della retorica che la gente se ne frega, è una riforma vera. Però lei ha ragione a dire che il tripolarismo non è che possiamo scoprirlo adesso, c'era anche il giorno dopo le elezioni 2013. Quindi dire adesso che si vuole cambiare perché ha cambiato lo scenario vuol dire quello che diceva lei, sostanzialmente. Il 41% cioè, con sì, la mancetta elettorale degli 80 euro, allora erano convinti che il 41% poi la gente ha capito che è tutta una farsa, adesso vedono i sondaggi e vogliono cambiarla tutti insieme. Cioè destra e sinistra non hanno capito che ormai è finita, basta, la gente è stufa dei loro giochi, il loro potere, devono fare le cose per le persone. No che mi danno 80 euro dopo neanche 6 mesi me li richiedono indietro, ma che facciamo? La gente è stufa, ha capito il gioco, non gli dà più fiducia e fa bene. Va bene, grazie Ciro, buona serata, grazie. Ci risentiamo dopo anche con tutti gli altri ascoltatori, faremo anche la copertina, 800 24 00 24 dopo. Pronto? Ah Filippo, ma dove sei? Ma come dove sto? Con sto caldo sto al mare, oh! Ma quale mare, Fili? Torna subito! Per miracolo quelli di Radio 24 ci hanno ingaggiato! Sono riuscito a vendervi un programma, si chiama I Fuori Posto. Ma ci pagano? Ma sì che ci pagano! Ma di che parla sto programma? Che ti devo dire? Parleremo di tutti quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro, nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e mo non ce l'hanno più, eppure di tutti quelli che hanno scelto invece di stare nel posto sbagliato. Dai, muoviti, Fili! Ok, mi hai convinto, vengo! Dal 1 agosto Umberto Alezio e Filippo Roma saranno I Fuori Posto, dal lunedì al venerdì alle 10 su Radio 24. Aspetta, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I know you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets. But no one's even listening to you. La rappresentazione del prossimo referendum, come il giudizio universale, è inopportuna, irrealistica e fuorviante. Tanto quando si vuole dimostrare che questa riforma sarà la panacea di tutti i mali, così come quando si prospetta la fine della democrazia se la riforma verrà approvata o la catastrofe se verrà respinta. C'è 9:18 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, buonasera ad Alessio Maurizi, vi aspettiamo all'800 24 00 24 anche con gli aggiornamenti per quanto riguarda la notizia della sparatoria avvenuta in un centro commerciale a Monaco di Baviera. Ancora non si conoscono bene i contorni di questa notizia. Cose di casa nostra, dopo lo stop al Senato della legge che dovrebbe introdurre anche in Italia il reato di tortura, la opinione del ministro della giustizia Orlando e altre voci, vai. Sulla tortura io credo che dobbiamo arrivare a una conclusione, perché c'è un vuoto normativo che è stato anche segnalato da Strasburgo, e dobbiamo spiegare alle forze di polizia che l'obiettivo non è quello di penalizzarle o di rendere loro la vita più difficile, ma quello di tutelare la stragrande maggioranza dei lavoratori delle forze di polizia. istituire un reato di tortura così come è formulato mi sembra intimidatorio nel confronto del lavoro di chi tutti i giorni deve proteggere la nostra incolumità anche in un momento particolarmente delicato. Non mi risulta che ci siano degli esponenti delle forze dell'ordine che non abbiano dovuto rispondere di loro eccessi. A Londra, dopo la Brexit, non va male a tutti, anzi qualcuno dice che sta andando bene, sentiamo. Quando c'è stato il Brexit e la moneta inglese è andata giù, c'è stato un incremento di turismo qui a Londra e noi ne abbiamo approfittato tantissimo perché essendo qui al centro è stato proprio, si è visto, per me personalmente è un vantaggio fino adesso. Allora, 800 24 0024, ascoltatori, tra poco a voi la parola. Qui in studio con me c'è Cristina Carpinelli. Ciao Cristina. Ciao. Per aggiornamenti e per... intanto riepiloghiamo questa notizia che abbiamo dato nel giornale radio, anche prima con una breaking news, ma ancora non è chiaro. Ancora non è chiaro, ci sono stati, questo è quello che possiamo dirvi, alcuni colpi d'arma da fuoco sparati nel centro commerciale Mona di Monaco di Baviera, nel quartiere Mosac, la zona nella quale ci sono state le Olimpiadi nel 72. Ad aprire il fuoco sarebbe stata una sola persona. Tutto quello che vi stiamo dicendo è quello che stanno raccontando i testimoni che sono riusciti a fuggire dal centro commerciale. È in corso una vasta operazione di polizia, la metropolitana è chiusa perché chi ha sparato sarebbe poi fuggito usando la metropolitana, ed è di pochi istanti fa questa agenzia nella quale appunto la polizia dice che si aspettano molti morti. Questo lo dice un portavoce della polizia riferendosi appunto a quanto successo a Monaco nel centro commerciale. Per ora tutto, la situazione è molto incerta, si parla di 3 morti, 12 feriti, ma alcuni organi di informazione riferiscono di 15 corpi a terra. Ovviamente tutto ancora in corso, c'è questa vasta operazione di polizia, la Farnesina ha attivato un'unità di crisi, tutta la zona attorno al centro è chiusa, addirittura la polizia dice di restare a casa, di non avvicinarsi alla zona, l'attentatore, lo ripetiamo, è in fuga. Per ora questa è la situazione. Va bene Cristina, grazie, resta qua con noi e se ci sono delle altre notizie ce le darai. Stefano da Genova, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera. Io quasi resterei in linea con quello che sta accadendo. Ero rimasto alla Turchia e volevo solo dire che secondo me si dovrebbe cominciare ad acquisire una maggiore libertà d'azione politica con questi governi, come quello di Erdogan ed altri, nel Medio Oriente. Sì. Cominciando a svincolarsi dagli accordi che noi facciamo con loro o siamo costretti a fare con loro per frenare l'immigrazione, perché mi sembra che l'immigrazione sia un fenomeno che nel medio e lungo termine debba essere trattato in maniera più sistemica, organica, e non con dei palliativi e diciamo affidandosi a delle soluzioni temporanee come possono essere queste. E quindi penso sia il momento di fare dei grandi passi per una soluzione diversa, veramente importante del fenomeno dell'immigrazione, e allo stesso tempo di sganciarsi dalla dipendenza da certi governi, insomma, che dell'area medio orientale. Ecco. Va bene, grazie Stefano. È un bel problema perché la Turchia, l'abbiamo detto, è un alleato della NATO e quindi ci sono dei problemi anche logistici, non da poco. E poi siamo legati mani e piedi con questo accordo per quanto riguarda l'immigrazione, ma non solo, ci sono gli accordi per l'ingresso nell'Unione Europea, le trattative, anche se sono in una fase di stallo, tutte cose che legano la Turchia a tanti paesi, tra cui anche l'Italia. Ne abbiamo parlato in apertura con Emanuele Fiano, onorevole del PD, fino a che punto la situazione che si sta creando in Turchia può giustificare che tutto sia come prima, fino a che punto invece dovrà cambiare. Marco da Como, buonasera, benvenuto. Sì, ciao, ascolta una cosa, mi spiace dopo le notizie. Momento Marco, perché abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda Monaco. C'è probabilmente è in corso una seconda sparatoria, questo quanto riferisce la TV N24, parla di una seconda sparatoria nella Karlsplatz di Monaco, questo avviene, sta avvenendo nel centro della città, questo è quanto riusciamo a darvi in questo istante come ultimo aggiornamento. Quindi un altro focolaio di tensione e di minacce e di violenza sempre a Monaco. Restiamo con un occhio sulle agenzie. Marco, prego, vai avanti con il tuo intervento. Sì, sto dicendo, è chiaro che in questo momento gli altri discorsi passano in secondo piano, però mi ha dato fastidio, scusa perché sono entrato in un supermercato. Allora, mi ha dato c'è del movimento attorno a te, sì. Sì, ero uscito perché devo fare un po' di spesa prima che chiudano. Ascoltami, mi ha dato molto fastidio in tuo interlocutore precedente al telegiornale, quello che parlava della legge elettorale, eccetera. Ma non tanto il suo intervento, ove becero da Green, eccetera, ma il vostro atteggiamento di giornalisti che non contrastate questi modi. Però io non ho capito a cosa ti riferisci, a quale passaggio. All'intervento sulla legge elettorale, sì. Un vostro ascoltatore che diceva: adesso Renzi ha paura di perdere le elezioni, sì. Dopo la sbogna del 40%, adesso ha paura di perdere, per cui vuol cambiare la legge elettorale, eccetera. Beh, è una cosa che pensano in tanti, questa è una cosa che pensano in tanti. Ascoltami, anch'io tra l'altro un po' lo penso. Però va benissimo, però dobbiamo essere precisi se vogliamo fare buona informazione. Vale a dire, Renzi non ha cambiato idea, lui ha fatto una legge, che sia buona o che non sia buona, è la legge che ha potuto fare lui e va benissimo. Chi ha contrastato questa legge? La minoranza del PD, sì, altri partiti, è vero, fatto sì, cambiando sì. Idea, Forza Italia, eccetera, eccetera. I grillini che saltavano sui banchi della Camera, del Senato, i grillini, eccetera. Che però poi non la vogliono modificare. Esatto, dicono, sì. Allora voglio dire, se c'è dell'incoerenza è da parte di costoro, parlo dei grillini, che a questo punto, allettati dal fatto che nel ballottaggio sicuramente è la situazione vince. Opposta, esatto. Hai ragione, allora, però, Marco, perché è proprio il contrario. Dovete precisare, quando uno vi telefona e dice queste cose, diffonde queste notizie, che le persone normali, quelle che non seguono con attenzione eccetera, possono pensare sia vero, e la vulgata che passa dice no, è Renzi che adesso vuol fare il fuoco, vuol cambiare. Non è vero, Renzi è tirato per la giacchetta da Napolitano, da Bersani, da Cuperlo, da Alfano, eccetera, eccetera, per cambiare questa legge. Ma lui non ha detto la voglio cambiare. Quindi va bene, voi dite, va bene, cioè, Marco. Ci sei tu, vedi, ci sei tu, ci sono gli ascoltatori che giungono a precisare. A precisi, no, vabbè, ma altrimenti passa sempre la notizia, sì. Come una volta esaltavate Renzi, io mi ricordo 2, 3 anni fa, 4 anni fa, Renzi era la panacea di tutti i mali, era il nuovo, quello che rottamava, eccetera, gli altri, Letta, eccetera, tutti imbecilli. Adesso è il contrario, qualunque cosa. Va bene, Marco, questo programma qua, in questa fascia oraria qua, Radio 24, è bellissimo proprio per questo, perché se sfugge qualcosa al giornalista, come tu dici, al conduttore, se ne accorgono gli ascoltatori. Ci sono degli altri aggiornamenti, Cristina Carpinelli? Purtroppo sì, adesso non riusciamo a capire se la persona che sta sparando nuovamente, questa volta in un'altra zona di Monaco, sia la stessa che è fuggita dal centro commerciale nel quale ha sparato nel primo pomeriggio di oggi. Resta il fatto che le ultime agenzie ci raccontano che è in corso una nuova sparatoria, questa volta sarebbe appunto nel centro della città, mentre la sparatoria della quale ci siamo occupati proprio poco fa in apertura del programma, quella nel centro commerciale, sarebbe iniziata in un fast food. La polizia proprio poco fa ha lanciato un avviso a tutti gli abitanti, a tutti i cittadini di Monaco, di evitare le piazze della città. La situazione è dunque ancora incerta, continueremo a darvi tutte le informazioni che riceveremo. Benissimo, noi adesso ci fermiamo invece per le informazioni dai mercati, torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Well, it's a do-up to say about it. They say it's new, but con gli occhi puntati sulle agenzie di stampa e sugli schermi delle televisioni, perché poco prima delle 19 è arrivata una notizia dalla Germania, una sparatoria a Monaco di Baviera. Le immagini che in questo momento le televisioni trasmettono sono immagini di questo centro commerciale transennato, con poliziotti armati che corrono intorno a questo centro commerciale e tanta gente che si è radunata lì davanti a cercare di capire cosa è successo. Cristina Carpinelli, riepiloghiamo un attimo la notizia, e forse c'è una buona notizia, non c'è stata forse la seconda sparatoria. Esatto, questa è la fonte è quella dei vigili del fuoco, che hanno smentito la notizia che avevamo dato poco fa, quindi non è in corso una seconda sparatoria al centro di Monaco. Cos'è successo? È successo che all'interno di un centro commerciale, come dicevi, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Il centro commerciale si trova nel quartiere Mosac, quindi nel nord della città di Monaco, la zona nella quale sono state fatte le Olimpiadi nel 72. Sarebbe stata una sola persona a sparare, questo quanto raccontano i testimoni che abbiamo visto fuggire, c'erano anche molti bambini, quindi una situazione di grandissima paura, di grandissima tensione. È in corso in questo momento una grandissima operazione di polizia, purtroppo non riusciamo a capire quante persone siano coinvolte né se è finita, anche perché le notizie che arrivano si smentiscono talvolta l'una con l'altra. Addirittura inizialmente si parlava di 15 corpi a terra, adesso speriamo che questa notizia appunto non abbia conferma, si parla di 12 feriti, 3 vittime, ma è tutto appunto ancora in forse. La stessa polizia dice che non si sa se sia uno o più attentatori, continuano a chiedere a tutti i cittadini di stare in casa, di non uscire, quindi situazione di grandissima tensione, città sotto assedio, blindata la zona del centro commerciale, e insomma stiamo aspettando di capire qual è l'epilogo di questa storia. Grazie Cristina, adesso torniamo invece sugli ascoltatori, cominciamo con Loris che chiama da Urbino. Buonasera Loris, benvenuto. Buonasera. Prego. Grazie. No, volevo tornare un attimo sulla legge elettorale. Sì. Praticamente. Allora, si torna a parlare, mi pare, negli ultimi giorni, di dare il premio alla coalizione, no? Al posto del partito che vince. Credo è una delle ipotesi, sì, di modifica dell'Italicum, sì. Praticamente si ritorna a alle ammucchiate, sì. Il partitino che ha 200-300 voti può condizionare tutto il lavoro della coalizione. Cioè, io non riesco a capire come si possa pensare una cosa del genere. Cioè, se noi pensiamo che negli Stati Uniti il presidente degli Stati Uniti viene eletto con poco più del 20%, no? Considerando che gli americani votano intorno al 40-45%, sono sempre due, più o meno alla metà dei voti, no? E poco più del 20%, non è mai successo assolutamente niente di pericolo per la democrazia, per tutta quello che può succedere oggi nelle società. Se noi cominciamo a ritornare, ritorniamo indietro e diamo il primo alla coalizione. Sì, sì, sì. Al momento, Loris, bisogna dire che si tratta solo di ipotesi che non riguardano la maggioranza, non riguardano il governo. Sì, sono non richieste. Serve assolutamente la riforma del genere. Cioè, teniamo quella che abbiamo, abbiamo risolto il problema, non stiamo a perdere tempo. Io credo. No, adesso la legge è stata cambiata, perché la legge è approvata, e quindi semmai si tratterebbe di modificare l'Italicum, non si può tornare alla legge di prima. Grazie, comunque buona serata. Andiamo con Giuseppe che chiama da Reggio Calabria. Buonasera Giuseppe. Buonasera a voi. Prego. Ma io, sentendo la trasmissione, mi è venuto in mente due anni fa, prima di che si votasse al Comune di Reggio, che è venuto il grande Peppe Somm, ha fatto un'ora e mezza di oratorio, di applausi. Sarebbe Beppe Grillo, sarebbe Giuseppe. Beppe Grillo, che poi addirittura io mi sono un pochino accalorato e mia moglie, ma che fai? E lui dal palco mi diceva, devo parlare con lui, vado là, come ti chiami Peppe? E che... Cioè, scusa, tu sei salito, Reggio, sei salito sul palco, un attimo Giuseppe, perché non abbiamo capito, sei salito sul palco del raduno del Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria 2 anni fa? tre Bravo, anni fa. Gli ho detto di darmi il microfono perché lui doveva dire che cosa è venuto a fare nella grande piazza al Duomo di Reggio, a dire che cosa. Mai menzionato né scopellite né tutto quello che diceva, che dobbiamo prendere il comune di Reggio, dobbiamo noi andare. Ma se tu sei venuto nella piazza numero uno della città di Reggio Calabria a dire che cosa? Abbiamo preso Parma con Pizzarotti, dobbiamo stravolgere. Ma come si chiama, Peppe? Dici tu o dico io quello che devi dire tu? Giuseppe, abbiamo capito pochissimo. Grazie, buona serata. Il suo intervento era un po' caotico. Comunque ce l'ha con Beppe Grillo. Enzo, dalla provincia di Roma, buonasera. Buonasera. Allora, noi esportiamo democrazia con le armi, gli aerei e tutto quanto. E ci meravigliamo se poi ci fanno gli attentati terroristici e compagnia cantando. Al di là del fatto che pare, da quello che si evince in Francia, che dietro ci sia una strumentalizzazione di questi attentati terroristici. Non possiamo cadere dal cielo e domandarci: ma come mai succedono queste cose se andiamo in Iraq dicendo che ci sono le armi di distruzione di massa e dobbiamo esportare democrazia in Egitto, Siria, Libia? Abbiamo esportato la destabilizzazione, la guerra. Ora, noi ci stiamo riempiendo di clandestini, siamo intorno a 1 milione. Possibile che non si capisca che l'1% di questa gente potrebbe essere appartenente all'ISIS? Che aspettiamo, le catombe? Allora, 1 milione di clandestini però non mi risultano in Italia, mi sembra una cifra un po' esagerata, però poi del resto per definizione non si sa quanti possono essere, ce ne sono tanti. Questo è il punto, perché o 2.000 o 3.000 ne sgozzeranno 10.000 di italiani quando dovrà servire. Noi siamo un popolo di stupidi, tutta l'Europa è contro questa immigrazione giustamente selvaggia, solo noi. In nome di che? Deve far guadagnare a 4 gestori? Ce l'hanno imposto l'alta finanza americana e inglese, con l'Inghilterra che fa finta di uscire dall'Europa dove non è mai stata. Allora si evince un disegno globale, che l'America non vuole un'Europa unita e forte. Enzo, la interrompo qua con queste sue divagazioni globali, perché ci sono notizie che arrivano da Monaco. In realtà sono non notizie, Cristina, perché si esclude, cioè almeno non si può dire che si parli di terrorismo. Esatto, diciamo che nessuno per ora ha il coraggio di cominciare a parlare chiaramente di quello che sta avvenendo come di un atto di terrorismo. Resta il fatto che quella che stiamo raccontandovi, quella che stanno vivendo i cittadini di Monaco, è di fatto una sparatoria molto confusa. La polizia sta continuando a dare informazioni, ovviamente, che danno proprio il senso della notizia in movimento. Non si sa se a sparare sia stata una sola persona, se all'interno del centro commerciale ci sia ancora qualcuno, se ci siano più attentatori. Resta il fatto che la città in questo momento è blindata, la metropolitana è chiusa, non abbiamo ancora, a distanza di quasi 2 ore dall'inizio di questa vicenda di cui vi stiamo parlando, un'idea di cosa stia succedendo veramente. Si parla di diverse vittime, questo è quanto ha detto proprio mezz'ora fa il capo della polizia di Monaco, diverse vittime ma il numero non è stato quantificato, e diversi feriti. Abbiamo escluso, e questo lo abbiamo detto, l'ipotesi che fosse in corso una seconda sparatoria nel centro della città. Il centro invece commerciale nel quale è avvenuta la sparatoria è stato transennato e per ora appunto le informazioni restano del tutto frammentate. Ecco, speriamo di avere presto invece delle notizie più tranquillizzanti. Del resto appunto al momento siamo ancora fermi su questi flash di agenzia. Le ripeto, le immagini che arrivano dai circuiti internazionali sono molte auto della polizia, personale di polizia che gira concitatamente intorno al centro commerciale, gente che si è assemblata davanti per vedere cosa sta succedendo, ma appunto poco altro anche sono le notizie. Lello da Milano, buonasera all'800 24 00 24. Prego. Sì, buonasera e grazie per farmi partecipare. Premetto che ho fatto servizio presso per il Ministero dell'Interno in Polizia di Stato per 14 anni, dall'82 al 96, e volevo dire la mia opinione riguardo a questo disegno di legge per la tortura che dicono e che l'Europa ci ha chiesto. Io volevo dire, io vivo a Milano, ho fatto servizio solamente a Milano e conosco solo questa realtà. E già oggi è da, guarda, da circa 15 anni, 20 anni, che qualsiasi cosa, diciamo fra parentesi, fra virgolette, sbagliato, un poliziotto o un carabiniere fa nei confronti di un cittadino, uso il termine cittadino per non dire delinquente, balordo o qualcuno che capita fra le mani della legge, e rischia assolutamente di essere denunciato, e sfortunatamente la magistratura, e parlo solo di Milano, è sempre contro le forze dell'ordine. Non vorrei che con questo disegno di legge, cioè che questo disegno di legge sarebbe una cosa in più per approfittare di questa debolezza, le posso assicurare, perché io oggi non sono più in polizia, ma ho un mucchio di miei amici, carissimi amici, che ancora svolgono. No, ma e che ci sia un'oggettiva difficoltà anche a svolgere il lavoro delle forze dell'ordine, la polizia, come dice lei, è una debolezza. Però questo non ha nulla a che vedere col fatto che si introduca nel codice penale un reato come questo, che ce lo chiede da tempo anche l'Europa. È una cosa specifica che riguarda proprio il caso di malversazione, di tortura, e quindi non dovrebbe avere nulla a che fare con quello che diceva lei. Naturalmente bisogna evitare torture, eccetera, eccetera, però sono due cose diverse. Grazie, comunque, buona serata, Lello. Ciao. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Proviamo a raccontare una storia che viene dal nord, dalle montagne, la rivincita del latte, perché dopo anni di crisi e di stalle che chiudono c'è una lenta ripresa che fa girare l'economia, almeno in Trentino ci sono aperture di nuove stalle, e ne parliamo con una giovane allevatrice che è Irene Piazza. Buonasera, ciao Irene. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Allora, noi siamo partiti da qua, c'è uno spunto perché questo fine settimana c'è anche la festa del latte lì dalle vostre parti, la provincia autonoma del Trentino ha comunicato queste cifre, perché l'ultimo bando provinciale per l'apertura di nuove stalle ha visto un sacco di persone, anche giovanissimi, che volevano partecipare. Una cosa in controtendenza, ci fa piacere. Dove ti trovi tu? In che zona sei? Intanto? Io sono sul Passo Broconc, quindi è sopra la Valsugana, nel Tesino, Castello Tesino, al comune. In paesaggio immagino che sia notevole, mozzafiato. Sì, com'è? Siamo a 1700 metri, quindi c'è una bella vista sicuramente. Com'è il tempo stasera? Oggi è brutto. Appena finito un bel temporale. Senti, quanti animali, quante mucche avete voi nel vostro allevamento? Noi abbiamo una malga con 40 vacche in lattazione, quindi che producono latte. È il latte che io trasformo, sono vacche al pascolo. E poi abbiamo le mante, che quindi sono vacche però ancora più piccole, che non producono ancora latte. Quelle sono 180. Tu sei una ragazza, sei giovanissima, quanti anni hai, ce lo puoi dire? 23 anni. E hai cominciato però a fare questo, ad occuparti di questo a 16 anni addirittura. Sì, a 16 anni. E come hai iniziato? Perché i miei genitori appunto hanno un'azienda agricola. Sì. E assieme a mio fratello, che è poco più grande di me, ha 2 anni più di me, avevamo pensato di provare a prendere una malga. Noi abbiamo sempre venduto il latte, non l'abbiamo mai trasformato. E quindi abbiamo provato a prendere una malga, ma più per gioco, insomma, non molto convinti di riuscire ad ottenerla. E invece siete arrivati fin qua, insomma, con un allevamento. Ce l'abbiamo fatta, però mancava il casaro, e quindi io sono diventata la casara, perché nessuno sapeva fare il formaggio a casa mia, non avevamo la tradizione. Senti, che come dite voi, delle stalle che aprono e così, tante volte a dare i margini e a creare turismo, eccetera, più che altro poi la trasformazione del latte. Perché altrimenti il latte in sé, lo sappiamo, il prezzo è sceso, cioè è cresciuto poco rispetto a quello che invece è stato il costo della vita. Cioè oggi si dice che in Italia produrre latte non conviene più. No, perché non c'è né conformazione geografica che ti permette di fare concorrenza a altri stati più pianeggianti, così. E neanche da un punto di vista, insomma, burocratico e così via, non è molto conveniente la produzione di latte in sé, perché non siamo in grado di valorizzarlo. Invece trasformandolo si riesce a dargli valore aggiunto, che è anche quello che poi crea turismo e crea prodotti di qualità come quelli di montagna quando le vacche sono al pascolo. Mm. La cosa che ci ha incuriosito della tua storia è che tu non sei, perdonami la banalità, la stupidità, non sei la contadinella che vive nei boschi, in montagna, ma tu studi per esempio all'università, no? Eh sì, beh, io prima di intraprendere questa avventura avevo tutt'altri interessi, cioè letteratura, politica e queste cose qui. Però studi ancora all'università? Studio, sì, sono al terzo anno, mi manca praticamente l'ultimo, questo semestre qui, e poi spero di laurearmi, insomma, a dicembre. Ecco, brava, complimenti. Allora, resta lì, così ci racconti qualche altra lieta novella dalle montagne del Trentino, dove anche se oggi è brutto tempo, però ci arriva già una bella aria. Abbiamo invece degli aggiornamenti per quanto riguarda la notizia della sparatoria a Monaco, Cristina Carpinelli. Sì, Alessio, il Ministero dell'Interno tedesco ha infatti confermato che al momento risultano 3 le persone uccise nella sparatoria nel centro commerciale Olimpia di Monaco di Baviera, molte di più invece sono le persone rimaste ferite, ancora non abbiamo delle indicazioni, la polizia invece sta continuando a dire che ci sarebbe più di un attentatore, la polizia non ha idea di dove siano, la situazione dunque resta incerta, non sappiamo dove si trovano gli attentatori, questo ha detto proprio pochi istanti fa un portavoce della polizia di Monaco. Grazie Cristina. Irene Piazza dalle montagne del Trentino, allevatrice di mucche e produttrice di formaggi buonissimi, particolari, fate delle cose, se ho capito bene, anche col cioccolato. Che cos'è che fate, Irene? Sì, sì, diciamo che avendo iniziato a produrre formaggi da poco in un contesto comunque dove già vengono prodotti formaggi tipici di Maiga, sì, ho cercato di creare un nuovo segmento di mercato e quindi mi sono concentrata di più su formaggi particolari, formaggi affinati, al cioccolato, alle erbe di montagna, ai fiori, al vino. Mm, qual è quello che ti piace di più? Beh, oddio, il mio preferito è il brie, a dir la verità. Quello quel che faccio classico, io, quel classico però. Sì, sì, e col ginepro dentro. Ok, senti, ma qual è la caratteristica che bisogna avere? Cioè, che una ragazza come te, una ragazza giovane di 23 anni, deve avere per fare questo lavoro? Bisogna essere molto pazienti, bisogna essere disposti a passare tante ore da soli, in solitudine, ci vuole tanta forza fisica? Ma, beh, oddio, forza fisica sì, abbastanza, soprattutto io lavoro tutto a mano, ho le caldaie col fuoco a legna, quindi è abbastanza faticoso come lavoro. Però io penso che poi, alla fine, come tutti i lavori, se c'è un minimo di passione, poi si riescono a fare le cose. A proposito di passione, tu sei lì col tuo fidanzato, tra l'altro, no? No. Avevo capito, ma pensavo che tu fossi in compagnia, perché invece io dico sei sola. Sempre il mio ragazzo, perché è il ragazzo che lavora qua come aiutante, ma... Ah, vabbè, però non sei sola lì nella maglia. No, sola no, c'ho un po' di aiutanti. Senti, ma sono passati di là i Pokémon? Oh, Madonna, io ho solo sentito lontanamente questa faccenda, ma non ho assolutamente capito che razza di storia sia. Brava. Un po' neanche... di caprioli, se volete. Sì. No, è un gioco che si fa con il telefonino e la realtà aumentata, e tanti tuoi coetanei o anche più giovani in questo momento nelle città invece di stare dietro alle mucche stanno dietro ai Pokémon, però questa è un'altra storia. No, niente. Solo virtuale, capito? Non portano niente di buono, non portano niente se non un po' di svago e un po' di distrazione. Irene, noi ti salutiamo, cosa vuoi fare? Grazie da grande per salutarci? Questo? Beh, vuoi continuare a fare la casara in montagna? Brava, sicuramente brava. Un abbraccio, un saluto dalle montagne del Trentino. Grazie mille. Cristina Carpinelli, abbiamo degli aggiornamenti ancora? Allora, da... ci sono delle indicazioni, sì, di massimo, ovviamente la Farnesina consiglia ai connazionali di evitare spostamenti, seguire indicazioni delle autorità locali, la polizia invece di Monaco dice di stare in casa, conferma che ci sarebbe più di un attentatore, ancora non si sa appunto come stiano lavorando. Cominciano ad arrivare anche le testimonianze di chi ha vissuto i momenti della sparatoria, si parla di 3 morti, diversi feriti, continuano a parlare i testimoni di 30-40 colpi esplosi all'interno di questo fast food nel centro commerciale di Monaco, cosa che sta cominciando ad arrivare anche attraverso, sì, i video che vengono postati appunto sui social network. Per ora appunto la situazione è ancora incerta, la città è praticamente blindata, la metropolitana è chiusa, le piazze transennate, stiamo vedendo delle immagini. Sì, le immagini sono queste, quello che tu stai descrivendo è anche quello che trasmettono le immagini immagini nei circuiti internazionali. Abbiamo un giornalista, un collega italiano che si trova a Monaco, Mario Trabalza. Ciao Mario, buonasera. Buonasera, buonasera. Dove ti trovi tu al momento? Sei nella zona? Guarda, io sono in casa non molto lontano dal centro e abbastanza lontano fortunatamente dal centro commerciale. Io oggi ero in giro e poi all'improvviso ho visto macchine della polizia e quindi ho capito subito che c'era qualcosa. Ho acceso la radio in macchina e abbiamo sentito le notizie. Io adesso sono rientrato, sono davanti al televisore qui sotto casa mia, che è una strada molto trafficata che porta direttamente al centro, vedo passano costantemente macchine di polizia, e quello che voi ho sentito adesso poc'anzi avete detto è quello che la televisione sta dicendo, i colleghi della televisione tedesca stanno dicendo. Quindi la città è paralizzata, le metropolitane, le UPA, le sotterranee sono chiuse, c'è veramente tensione, poi tra amici ci scambiamo SMS, WhatsApp, ci sei, tutto bene, quindi si sente, si respira questa atmosfera pesantissima. Per quanto riguarda poi i fatti accaduti, esattamente quello che avete detto voi, brancolano ancora... Cioè, le notizie che hai tu sono più o meno quelle che abbiamo anche noi dalle agenzie e dai siti. Ascolta, volevo chiederti una cosa, perché noi non abbiamo idea di quali siano le dimensioni di questo centro commerciale, quante persone potevano esserci. Cioè, ci racconti com'è frequentato a quell'ora, quante persone c'erano, che tipo di persone c'erano? Perché noi abbiamo visto famiglie scappare. Il centro commerciale è uno dei più grandi, se non il più grande di Monaco, si trova nella zona a nord della città ed è frequentatissimo, soprattutto il venerdì e il sabato. Il venerdì normalmente in Germania alle 2, alle 3 finiscono di lavorare, quindi era anche l'orario, diciamo, giusto per andare a fare le spese. Quindi potete immaginarvi negozi e centinaia di persone che fanno acquisti. Quindi poi il venerdì, la sera, ma soprattutto il venerdì e il sabato sono giornate di punta. Quindi è chiaro che chi è andato lì sapeva che avrebbe trovato comunque persone. Certo. Va bene, intanto la polizia invita a non pubblicare sui social network, a non postare immagini o video, foto anche della zona dell'attentato, della sparatoria, perché aiutano gli attentatori, così è stato detto, e quindi c'è anche questa preoccupazione. Delle immagini stanno in effetti circolando, noi vediamo immagini della televisione, credo che sia la TV pubblica o qualcosa del genere in Germania. Non so se tu hai visto invece sui social, Cristina, altre cose. Allora, continuano ad arrivare queste informazioni, e questa è la cosa che secondo me resta più inquietante, perché di fatto la sparatoria lì si è conclusa. La questione è che la polizia continua a dire che non si sa al momento dove si trovino gli attentatori, perché i testimoni fino adesso parlavano di un attentatore che è fuggito a piedi addirittura prendendo la metropolitana. Adesso questa è la notizia che continuano a ribattere le agenzie, che continua a ritornare e che vediamo così come arriva a noi. Quindi cerchiamo di capire se la storia è ancora in corso, se sta per succedere qualcosa, se si è conclusa, non sappiamo, ripetiamo, okay. Sono 3 le vittime, più di 10 i feriti per ora. Questa vediamo è la notizia. Anche un sacco di gente che viene in qualche modo spostata e convogliata altrove rispetto forse al luogo della sparatoria, non è chiaro anche da queste immagini. Tra poco torniamo anche col collega che si trova a Monaco, Mario Trabalza, che magari è in grado di darci qualche altra notizia. Non so se abbiamo la pausa adesso o se... sì, abbiamo la pausa, poi torniamo di nuovo con gli ascoltatori a più tardi 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lì. l'Islam è un problema. L'Islam è usato da chi vuole imporre un modo di vivere incompatibile con la nostra libertà. Non è solo una religione. Non abbiamo problemi con gli ebrei, i buddisti, i valdesi, i protestanti, gli Hare Krishna, gli avventisti, i cattolici, gli atei. Nel nome dell'Islam si uccide, quindi prima di dare qualunque concessione alle comunità islamiche a qualsiasi titolo, io aspetterei ad esempio che i paesi islamici sottoscrivessero la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Lei avrà visto sicuramente la sentenza di esattamente una settimana fa della Corte Costituzionale turca che ha depenalizzato il reato di pedofilia, che insomma fanno impressione e danno la fotografia, non so se si possa dire senza che nessuno si offenda, di come alcuni principi dell'islamizzazione radicale penetrano poi nel diritto costituzionale del paese. Sulla Turchia, queste erano le voci di Salvini e di Emanuele Fiano del PD, l'abbiamo sentito in apertura alla sua polemica con i gruppi delle comunità islamiche in Italia che hanno festeggiato quello che sta accadendo adesso in Turchia come il ritorno della democrazia, il consenso popolare attorno a Erdogan, minimizzando assolutamente quello che sta succedendo in termini di violazioni dei diritti elementari, arresti di massa, eccetera, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo tra poco anche con gli aggiornamenti, le notizie che arrivano da Monaco di Baviera. Il Consiglio di Stato ha dato via libera stamani all'istituzione con decreto del registro delle unioni civili di coppie omosessuali. Era un provvedimento urgente e ampiamente atteso. E allora, Cristina Carpinelli, ci sono degli aggiornamenti, delle notizie d'agenzia? Allora, la situazione che sta vivendo Monaco di Baviera in queste ore è totalmente caotica, disperata direi, tanto che oggi c'è stata, dicevamo, una sparatoria in un centro commerciale, le vittime potrebbero essere 3, più di 10 i feriti, questi sono i dati che cominciamo ad avere, ma la polizia non ha escluso che ci siano altri attentatori, mentre nel corso della serata, mentre noi vi parlavamo, si era diffusa la notizia che ci fosse una seconda sparatoria a Karlsplatz. Ecco, questo ha generato scene di panico, le persone che erano in quella piazza hanno cominciato a fuggire, gridare, piangere, quindi questo è quello che sta vivendo la città in queste ore, una città, l'abbiamo, ripetiamo, sentito anche totalmente... prima con Mario, il collega che sta, esatto, a Monaco, blindata, gente che non esce di casa, la polizia che appunto invita anche a stare a casa, a non postare immagini assolutamente che riguardino la sparatoria, eccetera. Cioè, nonostante eccetera. Nessuno ha cominciato ancora a parlare di un attacco terroristico, continuiamo a parlare di una sparatoria. Quindi, anzi, le principali ancora, testate, esatto, giornalistiche anche online in Germania non usano questa espressione, o per prudenza o per timore, anche semplicemente di fomentare di accendere questa ipotesi, o anche semplicemente perché forse dalle forze dell'ordine, dalle autorità arriva il messaggio che non è chiaro quello che è successo è che si tratti effettivamente di questo, di un attentato terroristico al quale ormai siamo tristemente, purtroppo, esatto, ahimè, ultra abituati. Lorenzo dalla provincia di Viterbo, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per la possibilità che ci date di intervenire. Io voglio in realtà sottolineare quello che lei ha già da poco detto, insomma, il fatto che ci sia il plauso di diversi imam di varie comunità islamiche qui in Italia che plaudono a tutto quello che sta succedendo in Turchia, dicendo che è giusto, che è una delle soluzioni più idonee a recuperare la religione musulmana nel paese turco. Questo chiaramente porterebbe una quella che è già iniziata, una specie di piccola guerra civile interna, anche se non con armi, ma sicuramente a livello ideologico e nella vita di tutti i giorni, tra italiani islamici e italiani non islamici, perché chiaramente il nostro modo di vivere occidentale, o comunque il nostro modo di vivere italiano, europeo, non si sposa con tutto quello che sta succedendo, incluso il fatto che adesso le persone che vogliono uscire per lavoro dalla Turchia dovranno presentare, e questa è una cosa che ho letto da pochissimo, dovranno presentare una il contratto prima di partire dal loro paese. Sì, oggi tra l'altro sono stati sospesi, grazie, buona serata, sono stati sospesi 11.000 passaporti, così abbiamo letto a notizia d'agenzia, naturalmente non sono fonti del governo, ma sono altre fonti che danno queste notizie. Cristina, ancora da Monaco? Sì, un flash, sì. Allora io sto seguendo le informazioni anche su questo sito, Layview Map, nel quale appunto tutti i giornalisti, ma anche chi è lì testimone posta e scrive quello che sta accadendo, e proprio pochi istanti fa la notizia, così ve la do, di una sparatoria in questo momento in metropolitana. Quindi adesso cerchiamo di capire poi quali saranno gli sviluppi di questa notizia e se è una notizia appunto che ha un fondamento. Per ora io ve la do così come l'ho letta. Ripeti la fonte, perché questo è importante. Tu stai consultando questo è un sito che mette in contatto, sì, giornalisti, in questo caso giornalisti che sono presenti a Monaco, che mettono appunto in condivisione documenti audio, documenti foto, video e notizie, e in questo momento uno di questi contatti ci dice che è in corso una sparatoria in metropolitana. Bisogna capire appunto quanto sia verificata questa informazione, stiamo cercando appunto di verificarla noi stessi, però intanto cominciamo a darla, perché potrebbe essere anche la conclusione di questa storia con l'arresto, probabilmente l'uccisione appunto dell'uomo che oggi attorno alle 18 è entrato in un centro commerciale e ha sparato, uccidendo presumibilmente 3 persone, ferendone forse 12. Grazie Cristina, e allora andiamo in collegamento da Francoforte con Alessandro Merli. Ciao Alessandro, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera a voi. Allora, quali sono le notizie che anche tu, visto insomma noi stessi stiamo consultando tutto quello che è possibile consultare, abbiamo fatto un collegamento con Monaco con un collega che si trova chiuso in casa, e quindi te sei a Francoforte, addirittura sei in un'altra città, però immagino che sarete tutti con i televisori accesi, le radio accese, gli occhi puntati sui siti di notizie, e quello che mi sembra al momento colpisca è una mancanza anche di informazioni ufficiali, no? Non si sa esattamente cosa sia successo a Monaco, Alessandro. Sì, sono molto confuse le informazioni che arrivano anche dalla polizia di Monaco. Di solito la polizia in Germania è sempre molto cauta prima di dire qualsiasi cosa. In questo caso sono uscite molte informazioni anche contrastanti. Prima si è detto che c'era un morto, poi 15, poi 6. Poi che l'attentatore era uno, lo sparatore era uno, poi che probabilmente erano diversi, pare che siano fuggiti sulla metropolitana, che infatti è stata bloccata, cioè la riga di informazioni, diciamo che anche dalla polizia è venuta, è abbastanza a sua volta fonte di confusione. Si sa ben poco, pare che appunto questa sparatoria si è iniziata in un Bronx. Ricordiamo che questo shopping center enorme ha 135 negozi, il più grosso della Baviera, e ci sono ancora molte persone asserragliate dentro questo centro commerciale che è in corso di evacuazione molto molto lenta, molto progressiva. Purtroppo è anche un luogo a brevissima distanza dal villaggio olimpico dove nel 1972, settembre nero, il gruppo terroristico palestinese uccise 11 atleti israeliani durante le Olimpiadi. Quindi diciamo che ci sono degli echi di un'altra vicenda molto molto tragica che ha colpito praticamente lo stesso quartiere. Certo, il fatto che non si sia ancora usata la parola terrorismo, te lo chiedo perché per quelle che sono le fonti che abbiamo noi, cioè quei pochi siti che stiamo monitorando, io personalmente non leggo benissimo il tedesco, ma lì al momento si usa questa espressione, Alessandro, oppure rientra in questa sorta di cautela, grande cautela che tu dicevi prima la polizia spesso ha in Germania prima di dare notizia, anche se oggi abbiamo avuto notizie un po' confuse? Una fonte della polizia di Monaco ha detto con uno dei media locali che effettivamente pensano che si tratti di terrorismo, sono arrivate sul posto le forze speciali, diciamo che non c'è nessuna conferma ufficiale, ma ovviamente l'orientamento l'orientamento è questo. Poi è chiaramente una situazione in divenire, direi minuto per minuto. Forse la cosa più preoccupante dal punto di vista della polizia di Monaco è che questo sparatore o questi sparatori siano per il momento riusciti a far perdere le proprie tracce. Pochi minuti fa si era anche diffusa la voce di un'altra sparatoria in centro a Monaco, che è stata smentita, forse l'avete già riferito, quindi diciamo quella che, sì, quella sì, però poi sembrerebbe anche appunto da questa applicazione, questo sito che mette in contatto giornalisti che sono nella stessa area, invece si era diffusa la notizia di un'altra possibile sparatoria. Cristina, hai degli aggiornamenti? Sì, in questo momento l'ultima notizia ci dice che è stata evacuata la stazione centrale di Monaco per un'azione della polizia. Ecco, poi arrivano anche le informazioni purtroppo sulle vittime. I media tedeschi riportano infatti notizie che però non vengono confermate dalla polizia. I morti oscillerebbero, quindi le vittime nella sparatoria del centro commerciale oscillerebbero dai 3 alle 6 persone, ci sarebbero moltissimi feriti. E l'altra notizia che vi riporto, così come la riportano appunto gli organi di informazione, è che testimoni oculari hanno riferito di aver visto 3 persone con armi da fuoco. Questo è stato riportato anche dalla polizia di Monaco, che l'ha diffuso poi attraverso i social network, e ha precisato che appunto la sparatoria è iniziata alle 17:50. Quindi ci sono 3 attentatori presumibilmente ancora in fuga che vengono ricercati proprio in questi attimi nella città. Uno degli attentatori, tra l'altro, e questo è un dato che è stato di fatto confermato, è fuggito utilizzando la metropolitana, e pochi istanti fa noi vi raccontavamo che era in corso una sparatoria probabilmente all'interno della metropolitana, ma non abbiamo ancora conferma di quello che vi abbiamo detto. Stiamo ancora cercando di verificare questa informazione. (800) 24 00 24, cari ascoltatori, siamo qua anche per parlare, possibilmente, compatibilmente con quelle che sono le notizie che arrivano da Monaco di Baviera, di tutte le altre notizie della giornata. Antonio da Milano, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie della possibilità di intervenire. Intervengo per la notizia della proposta di introduzione del reato di tortura. Sì. Semplicemente la considerazione che faccio è questa: noi siamo già in un paese abbondantemente democratico e con altissimi livelli di attenzione sui diritti umani, questo è innegabile. Fortunatamente, direi. Fortunatamente. Io però faccio un discorso per quanto riguarda le priorità. È vero che l'Europa ce lo sta chiedendo, ma credo che sia il momento più sbagliato per concentrarsi su questo. Quello che sta succedendo a Monaco è anche un pochettino un segnale che potrebbe, spero di no, ma potrebbe confermare ciò che è successo nei giorni scorsi in Francia. Quello che dico è una forte attenzione a quelli che sono ancora di più i diritti di chi delinque in questo momento. Immagino che possa anche servire non da deterrente, ma al contrario, verso tutti coloro che possono venire in Italia per poi approdare in altre parti d'Europa, e quindi dire l'Italia sì, è un però, paese sì, assolutamente giusto. Antonio, però un momento, perché tu stai dando, fai un'equazione, cioè chiunque viene a contatto no. con le forze dell'ordine è un criminale prima di un processo, quindi questo non è neanche possibile. Cioè questo reato di tortura viene introdotto per mettere un paletto nel momento nel quale la polizia entra a contatto con presunti criminali, con presunte persone che stanno violando l'ordine pubblico in quel momento lì, prima ancora di un processo. Quindi se parliamo di diritti dobbiamo tenere a mente anche questo. Quindi non parliamo potenzialmente solo di criminali, possiamo parlare anche di chiunque, anche di medici. Però è un segnale esattamente opposto a quello che dovremmo dare, ovvero attenzione che chi delinque paga sicuramente non con la tortura, perché è una cosa che non deve mai esistere, Purtroppo nei paesi in cui c'è la tortura, e sono anche i paesi che sfornano i più grandi terroristi, stiamo dando il segnale esattamente opposto. Io sto dicendo che deve essere fatta e approvata assolutamente, sono assolutamente a favore, ma è il momento assolutamente più sbagliato per io però non vedo questo. Antonio, mi sforzo di seguirti, ma non vedo alcun collegamento, te lo dico sinceramente, proprio non vedo alcun collegamento tra queste cose, a meno che non vogliamo ammettere che un presunto terrorista, una volta arrestato, debba essere torturato poi una volta che si trova nelle mani della polizia. Questo è un altro discorso, però, ed anche questo è da escludere. Io non vedo un collegamento tra il reato di tortura e la minaccia terroristica. Se vuoi resta in collegamento, provi a spiegarmelo. Però adesso devo fare il traffico, torniamo tra poco. Cristina, ci sono delle altre notizie da Monaco in questo momento? No, in questo momento no. Quindi tra poco torniamo con gli aggiornamenti. Gli ascoltatori 800 24 00 24, tra poco. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buonasera a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati. Andiamo di nuovo a Monaco per vedere più che degli aggiornamenti, di riepilogare la notizia, magari riusciamo anche noi a capire meglio quello che è successo. Ci sono tanti flash di agenzia, Cristina Carpinelli, però non c'è ancora un quadro completo di quello però che è accaduto. Cerchiamo di raccontare cosa è successo alle 17.50 in questo grande centro commerciale che si chiama Olimpia, a Monaco di Baviera, nel quartiere Mozak, la zona appunto dove ci furono le Olimpiadi del 72. Un uomo, forse tre, questa è la notizia da verificare, comunque un uomo armato è entrato nel fast food di questo centro commerciale e ha sparato. I testimoni parlano di 30-40 colpi. La polizia dopo quasi due ore comincia a dire che le persone uccise potrebbero essere sei. Qualcuno inizialmente parlava di 15 corpi a terra, dozzine le persone ferite. Tre gli attentatori in fuga, dicevamo, la città totalmente nel panico, la stazione centrale di Monaco chiusa, fermi tutti i treni, ferme le metropolitane, tutte le piazze transennate, c'è una massiccia operazione di polizia in questo momento in corso, la polizia che continua a dire a tutte le persone di Monaco di non uscire di casa. Questo quanto viene ribadito anche dalla Farnesina e dal Ministero dell'Interno tedesco. Tutto appunto, dicevamo, è iniziato in un fast food. Nessuno ancora parla di attacco terroristico, ma il luogo appunto, il centro commerciale Olimpia, che è, come diceva anche un giornalista con cui ci siamo collegati, uno dei centri commerciali più grandi della Germania addirittura, ma comunque il centro commerciale più grande della città, dove il venerdì e il sabato sera vanno moltissime famiglie, moltissime persone, era pieno di persone, tanto che addirittura ci potrebbero essere ancora delle persone all'interno del centro commerciale che vengono fatte uscire lentamente. Quello che vediamo sono famiglie, bambini molto piccoli, passeggini, persone che piangono e camminano una dietro l'altra cercando di mettersi al sicuro. Panico che si è diffuso nella città, tanto che un'ora dopo l'attentato, un'ora dopo la sparatoria, si è diffusa una notizia di una nuova sparatoria, notizia fasulla, che ha però generato un panico talmente forte da mettere proprio in allerta la sicurezza di una delle piazze centrali di Monaco. Quindi questa è la situazione che si sta vivendo in questa città della Germania in queste ore, in questo venerdì sera. Queste sono le informazioni che noi abbiamo. Sì, sì. Abbiamo di nuovo in collegamento da Monaco il collega giornalista Mario Trabalza. Ciao Mario, di nuovo. Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Ho ascoltato esattamente quello che avete detto e sono queste le ultime notizie che circolano. Ci sarebbe una caccia all'uomo, una caccia a tre uomini, presunti tre, ma potrebbero essere di più. E l'altro aspetto che volevo sottolineare, appunto, hanno dato, stanno dicendo in televisione di non uscire da casa, perché ovviamente dovrebbero essere in giro questi attentatori, e si è praticamente scoppiato, è scoppiato il caos anche in tre piazze cittadine al centro di Monaco, dove si erano sparse delle voci non conformate, quindi voci incontrollate, non fondate, di sparatorie. Quindi, e quindi la gente presa dal panico hanno cominciato a scappare. Non solo, si sono barricati dentro i negozi, quindi c'erano scene di panico, persone, stanno dicendo in televisione, si abbracciavano, piangevano, completamente terrorizzate, in tre punti centrali della città di Monaco, in piazze molto vicine, che sono esattamente il venerdì e il sabato, sono sì. Mario, migliaia di persone. Se ne hai la Prego. Possibilità, affacciandoti dalla tua finestra o dal balcone, riesci a vedere cosa vedi? Cioè una città deserta, completamente deserta, sì. Auto della polizia, guarda, ci dicevi che, prima che passavano. Esattamente, quello che io vedo, perché io vivo in una strada abbastanza frequentata, che comunque non è molto lontano dal centro, il centro è a circa un chilometro e mezzo, due. Vedo praticamente poca gente in giro, ma costantemente passano mezzi della polizia, si sentono sirene, quindi si respira proprio un clima veramente molto pesante di paura. Va bene, grazie. Se vuoi resta ancora con noi, oppure ci risentiremo più avanti quando, se avrai delle notizie, se usciranno delle notizie a parte degli giornalisti che possono essere nella zona. Ascoltatori, 800 24 00 24, stiamo sempre in vostra compagnia e, come ho detto anche prima, compatibilmente con quello che sta accadendo e se ci saranno degli aggiornamenti, cerchiamo di commentare anche le altre vicende, le altre notizie, le cose che vi stanno a cuore. Giovanni da Milano, buonasera, benvenuto, prego. Buonasera, grazie dell'opportunità. Io volevo parlare della riforma costituzionale. Questa riforma è stata fatta con un voto di fiducia, per cui non rappresenta tutti gli italiani. La Costituzione è una cosa importante, seria, cioè non si può fare col voto di fiducia. Poi toccano, mi sembra, più di 50 articoli, giusto? Sì, pronto? Sì, sì, sì. No, mi stavo preparando a farle ascoltare quello che ha detto oggi il Presidente del Senato Grasso, che in effetti una dichiarazione comunque significativa, nella quale ha invitato a non stracciarsi le vesti sostanzialmente su questa riforma, sia in un senso positivo che in un senso negativo, qualora si sia favorevoli o contrari. Ha detto non è la panacea di tutti i mali. E glielo faccio sentire. La rappresentazione del prossimo referendum, come il giudizio universale, è inopportuna, irrealistica e fuorviante. Tanto quando si vuole dimostrare che questa riforma sarà la panacea di tutti i mali, così come quando si prospetta la fine della democrazia se la riforma verrà approvata o la catastrofe se verrà respinta. Eccolo qua, prego Giovanni, vada avanti. Sì, vero, bellissime parole, ma la Costituzione è una cosa seria. Ci vogliono anni per toccarla, quando la si tocca tanto per fare, cioè siamo sempre lì, piuttosto che meglio piuttosto, ma no, non meglio piuttosto, va fatta bene, una cosa molto importante, troppo importante, e poi il referendum per una cosa così importante, a parte che non ne sta parlando, non stanno chiarendo tutto, ma è molto difficile entrare negli articoli della Costituzione per un cittadino normale e capire cosa stanno facendo. Perché, ad esempio, però questo, perdonami Giovanni, ma questo è quello che accadrà sempre e comunque di fronte a ogni referendum, così come la Costituzione italiana prevede. Per cambiare la Costituzione si fa una legge, di riforma e poi c'è la possibilità di andare al referendum. E questo è inevitabile, sarà sempre così. Ci sarà sempre qualcuno che dirà che il Parlamento non era legittimato a fare quella riforma, eccetera, eccetera, o che la riforma era troppo complicata. Questo vuol dire che sostanzialmente la Costituzione diventa irriformabile? Te lo chiedo. Dica? Ti chiedo se la riforma, se la Costituzione italiana, secondo te, è per queste ragioni sostanzialmente irriformabile, perché ci sarà sempre, ti ripeto la domanda visto che non l'hai sentita, ci sarà sempre qualcuno che dirà che il Parlamento che ha varato la riforma non era legittimato per qualche motivo, ci sarà sempre qualcuno che dirà che il quesito del referendum costituzionale no, è tecnico, è difficile, non è comprensibile, è vero, però questo prevede la Costituzione italiana, capito? Alla Camera e al Senato qualcuno che fa le nostre leggi e deve discuterla. Se non la discutono vuol dire che non va bene, è sporca, non si può fare una cosa col voto di fiducia. Poi la Costituzione, mi sembra che negli ultimi anni già qualche articolo l'hanno toccato, per cui si può entrare nella Costituzione, ma non così a calcioni dritti e toccare poi 50, mi sembra che siano 50 gli articoli, giusto? Ogni articolo poi ha dentro altri titoli molto importanti. E poi sentivo Scanzi l'altra sera in una trasmissione che diceva che forse l'articolo 7, che è un articolo molto semplice, in quattro parole dava l'articolo e la Boschi ne ha scritte 479, 480 per questo articolo 7. Va bene. Voglio dire, grazie Giovanni. I costituzionalisti non sono d'accordo. Non che siano dei geni, per l'amor del cielo, ma se la maggior parte dei costituzionalisti non è d'accordo su questa riforma, insomma, sì, discutiamola di più. Va bene, grazie Giovanni per il tuo apporto. Buona serata. Cristina, abbiamo invece forse Alessio, qualche al volo. Allora, notizia, è in corso un'operazione in centro città, ci sono tre attentatori in fuga, gli ospedali della città si stanno preparando ad accogliere i feriti, che a questo punto sembrano essere molti. L'operazione in corso nel centro della città sta vedendo agenti di polizia pesantemente armati che stanno circondando l'area di Karlsplatz nel centro della città. La BBC sta pubblicando le prime foto di questa operazione di sicurezza. Il ministero interno invece della Baviera conferma che al momento ci sono 3 morti e non 6, come è stato diffuso da altri organi di informazione. Questa ma è una purtroppo notizia importante, perché il ministero dell'interno della Baviera quindi è una fonte ultra ufficiale, quindi al momento la fonte ufficiale dice che le vittime sono 3 e 3 sono invece gli attentatori tuttora in fuga, ed è in corso una gigantesca operazione di polizia in questo momento nel centro della città. Anche se vedo un'ultima ora, questa volta la dà il Fashion Sky, che parla di la polizia di Monaco dice che è un attacco terroristico. Fino ad ora non era stata usata questa espressione, sciolta la riserva, quindi sembrerebbe, quindi 2 le notizie, 3 le vittime secondo la fonte della Baviera. E poi anche il fatto che viene confermato l'attentato terroristico. Noi ci fermiamo per le informazioni sui mercati finanziari e torniamo tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Noi, le Forza Italia, non solo Forza Italia, il centrodestra è e continua a essere il partito del no, il partito dell'opposizione. Gli italiani hanno bisogno, se vogliamo mandare via Renzi, di avere un'offerta di governo. È arrivato Stefano Parisi, è arrivato colui che si candida in qualche modo a essere il nuovo leader del centrodestra. C'è stato un vertice oggi ad Arcore tra vari esponenti di Forza Italia. Parisi ha detto: io non voglio il posto di Berlusconi, ma dare una mano a questo nuovo centrodestra. Fare una legge oggi di costituzionale che abolisce il Senato, lo abolisce, perché io penso che questa riforma non è sufficientemente aggressiva. Eccoci qua, 800 24 00 24, con anche le notizie che arrivano da Monaco di Baviera. Andiamo con Marco da Trento, buonasera. Sì, buonasera, salve. Io parlare del discorso che avete parlato un attimo fa della notizia che l'Europa ci impone una legge sulla tortura, che la ritengo peraltro giusta. Sì. Però penso che l'Europa dovrebbe parlare anche di un discorso che in Italia ci dovrebbe essere anche una pena certa. È notizia di oggi che a Trento degli zingari sono stati assolti semplicemente perché hanno rubato, si parla di 150.000 euro, per necessità. Sì. Ma sembra una cosa dell'altro mondo. Prima di parlare della tortura che faranno sicuramente le forze dell'ordine, è una cosa che si legge... Sono due cose, Marco, che ci devono essere. La certezza della pena per chi commette reati, ma... Non c'è la certezza della pena. Qua uno fa il delinquente e dopo va da Don Mazzi. Uno prende 4 anni, ne fa 2. Schettino ammazza 30 persone, fa un disastro che ci rende i più ridicoli al mondo, no? Ha fatto un giorno di galera, uno! Sì, però questo vuol dire secondo te che questo allora vuol dire secondo te che se la polizia arresta uno e ci va con la mano pesante, come è accaduto magari per errore, è giusto? Io come lei lavoriamo dalla mattina alla sera, sì. E io penso che se uno viene beccato sul fatto, per me se si becca una randellata giù per la testa, per me ci sta. Ma beccato sul fatto a fare cosa? Scusi, una randellata sulla testa e beccato sul fatto a fare cosa? Uno che viene beccato a rubare. Cioè uno come... È presunto di che? È un delinquente, non è presunto. Uno che viene beccato a rubare. È giusto che uno che ha qualche grammo di hashish in tasca, che viene fermato e arrestato, debba morire in carcere o debba morire... Morire in carcere è un altro discorso, ma una randellata giù per la testa, se un poliziotto oggi glielo dà, non per un grammo di hashish per terra, cioè per in tasca, però oggi un poliziotto che magari deve difendersi non lo può fare perché deve non lo può fare perché l'Italia non è come la Turchia, capito? È un paese nel quale non puoi dare una randellata a uno, allora, non puoi, devi fare un processo e metterlo in galera. Mi dispiace Marco, ma devi andare a vivere in Turchia allora se vuoi questo. Vai a vivere in Turchia dove fanno questo e te lo pago io il biglietto. Se vuoi ci sentiamo dopo la trasmissione, ti do i soldi, ti pago il biglietto, però devi andarci, lì volano i randelli, volano le pallottole, hai capito? Ma cosa lei sta estremizzando? Cosa vuol dire questo allora vado in Turchia? Oggi giorno d'oggi un poliziotto non può difendersi, si ritrova all'interno della sparatoria, devi sapere se quell'altro sta al coltello, allora deve difendersi. No, guarda, non c'entra nulla col reato di tortura quello che stai dicendo sulla sparatoria e sul fatto che il poliziotto non può difendersi. Non è questo, cioè il reato di tortura ha delle previsioni specifiche che riguardano situazioni particolari, non è quello che stai dicendo. Guarda Marco, non è così. Dopodiché se sei veramente convinto che prendendo un malvivente in mezzo alla strada la polizia lo dovrebbe randellare rischiando di ammazzarlo, come a volte succede, ahimè, allora se credi questo ti invito ad andare a vivere in Turchia dove questo magari può succedere veramente. Mi avete tagliato mentre parlavo. No, non ti abbiamo tagliato, io ho detto quello che pensavo, puoi ripetere, puoi ribattere, puoi dire quello che ti pare. Non ritengo sia una cosa giusta. Cosa che non ritieni che sia giusto? Al giorno d'oggi le leggi che vengono proposte vengono sempre fatte per tutelare i delinquenti e mai personalmente. Chi stabilisce chi è un criminale? Se a te ti prendono, se a te la polizia ti prende per errore perché pensa che tu sia un criminale e ti dà delle randellate sulla testa per errore, chi ti ripaga di questo? Marco, ti rendi conto della bestialità che stai dicendo? Io ho beccato uno sul fatto rubare o su fare qualcuno, è giusto che si prenda una randellata per la testa. Io sono a casa mia, questa è un'altra cosa. Se sei a casa tua e qualcuno entra per rubare, è legittima difesa. Ma se parliamo della polizia che prende un presunto delinquente e gli dà delle randellate sulla testa, potrebbe capitare anche a te e potrebbe essere un errore. Potresti rimetterci le penne, riparliamone dopo. Beccato sul fatto con un piede di porco, per me non è un probabile delinquente, per me è un delinquente. Io non vado in giro con un piede di porco in tasca. Va bene, ciao Marco, grazie, buona serata. Ciao. Michelle da Roma, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire riguardo l'ultimo ennesimo atto di terrorismo che c'è stato a Monaco. Adesso bisogna verificare se si tratta di un attacco islamista, di origine islamista o quant'altro. Il mio dubbio è questo, cioè come diceva la Fallaci, se si tratta di un attacco islamista non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani. A questo punto è stata dichiarata una guerra nei riguardi del mondo occidentale, nei riguardi dell'Islam moderato. e abbiamo noi cittadini non ci sentiamo tutelati e difesi come dovremmo essere, perché non è possibile morire in un centro commerciale, non è possibile morire alla Promenade des Anglais per assistere a una manifestazione festiva come quella che è capitata. Sì, è vero, Michel, io sono abbastanza d'accordo con quello che tu dici e mi piace che tu dica che questa è una guerra anche contro l'Islam moderato, perché a Nizza sono morti 30 islamici, 30 musulmani, però dobbiamo ricordarci che tutelarci dal rischio del terrorismo in maniera assoluta è praticamente impossibile. È una triste verità, ma è così. Quindi quando tu dici non ci sentiamo tutelati come cittadini è comprensibile, però io ti chiedo come immagini che potremmo essere più tutelati? Cioè hai un'idea? Ma sicuramente molto di più si può fare, sicuramente fermare, non tenere magari, come c'era addirittura, c'è lo stato d'emergenza a Nizza in Francia in questo periodo, addirittura c'era soltanto una macchina della municipale. A proposito dello stato d'emergenza, c'è una notizia che viene da Monaco, Cristina. Esatto, perché anche a Monaco purtroppo è stato dichiarato lo stato d'emergenza, perché l'operazione di polizia è ancora in corso, c'è una gigantesca operazione nel centro della città, secondo la TV pubblica è stato richiesto l'intervento del corpo d'élite antiterrorismo, operazioni speciali, quindi stiamo cercando di capire se siamo alla fine appunto di questa storia con l'arresto, l'arresto dei tre presunti terroristi che oggi hanno colpito all'interno di un centro commerciale appunto nella zona nord di Monaco, uccidendo, e la notizia è stata confermata dal Ministero dell'Interno, tre persone. Per ora questa è la notizia che abbiamo. E con queste notizie puntualizzate appena adesso ci ha raggiunto in collegamento Stefano Torelli, che è ricercatore dell'ISPI, esperto di terrorismo. Buonasera. Buonasera a voi. Allora Torelli, che idea si è fatto, che idea vi siete fatti di quello che sta accadendo? Perché c'è stata una grande confusione anche a livello di notizie, di comunicazione da parte delle autorità, delle forze dell'ordine tedesche, che fino a poco tempo fa non avevano ancora fornito un quadro. No, probabilmente non è colpa loro di quello che è successo. Poco fa però la polizia tedesca ha detto si tratta di terrorismo. Ora io chiedo a lei di commentare questa notizia. No, certo, come giustamente ha sottolineato lei, le stesse autorità e le forze di polizia tedesche non riescono ancora a darci un quadro ben delineato di quanto sia successo e di quanto stia ancora accadendo, evidentemente. Quindi purtroppo verrebbe da dirsi, figurarsi noi analisti comunque che quadro possiamo avere. Quello che si può dire è che appunto evidentemente siamo di fronte a un episodio di chiaramente terrorismo, poi la matrice chiaramente è tutta ancora da vedere, da esplorare, però evidentemente quello che è accaduto a Monaco oggi, e ripeto in parte che sta ancora accadendo secondo le agenzie di stampa. Anche perché Torelli, giustamente lei ci invita a ricordare che nel senso stesso della parola terrorismo, che è quello di voler evocare, creare un terrore nelle persone, poi si potrà parlare di che tipo di terrorismo è stato, ma è sicuramente di questo stiamo parlando, Cristina. Certo, assolutamente sì. Assolutamente sì, stiamo parlando chiaramente di un atto di terrorismo, aspettiamo di capire quale possa essere la matrice, è innegabile che insomma tutti pensano a quanto insomma sta accadendo come trend negli ultimi mesi nel mondo e in Europa stessa, se pensiamo a Bruxelles, a Parigi, ad Ankara, quindi più o meno affiliati all'ISIS, quindi, cellule dormienti, no, dicevo, eccetera. Quella è innegabile dirlo, quella è l'idea che tutti la prima cosa che a tutti viene in mente. Ora chiaramente però è da capire bene come contestualizzare questo fatto. Sicuramente una riflessione che mi viene da fare così a caldo, diciamo, è che il terrorismo stesso di matrice islamica legato all'ISIS e così via sta già avendo purtroppo un successo e sta già raggiungendo un suo obiettivo nel momento in cui, e lo vediamo adesso in diretta, ogni volta che si verifica un fatto del genere ormai in qualsiasi parte del mondo, figurarci in Europa, tutti dicono che è l'ISIS, quindi una grande operazione di marketing che sta, ecco, ahimè, funzionando benissimo. Professore, quella è una considerazione da fare. Professore, le volevo chiedere anche, si sta parlando proprio, tra l'altro ieri si parlava di lupi solitari, arresti a Rio nel corso appunto di un'inchiesta, di un'indagine di controllo sulle Olimpiadi, oggi di nuovo presumibilmente si tratta di, adesso ancora ovviamente non lo sappiamo, però una, forse tre persone probabilmente appunto siamo in quel contesto lì, cioè e la situazione si fa anche più difficile anche da analizzare, nel senso che ormai stiamo parlando anche di persone che quasi si affiliano senza avere neanche contatti con l'ISIS stesso, stiamo parlando di esaltati che nel giro di poco organizzano appunto attacchi del genere, quindi siamo in balia e questo è il contesto che stiamo vivendo, la situazione che stiamo vivendo oggi. Beh, questo è un trend sicuramente, ripeto, siamo passati molto velocemente da neanche un anno fa parlare appunto dei famosi lupi solitari e della possibilità che persone anche isolate potessero anche semplicemente in nome di un'ideologia perpetrare degli attacchi di questo tipo, al passare a quanto accaduto a Parigi e Bruxelles, che era chiaro invece che vi fosse una rete di comando e controllo dietro e quindi che non fossero più lupi solitari ma vi fosse una vera e propria struttura, e invece nuovamente adesso siamo qui a commentare delle notizie da Nizza, ripeto, a oggi, ma anche la settimana scorsa in Germania stessa vi è stato quel caso di quel ragazzo afghano che è armato di un'ascia, Sul treno, insomma, ha ferito delle persone, quindi di nuovo siamo di fronte invece a commentare questo proliferare, diciamo così, di lupi solitari. Poi chiaramente, ripeto, adesso è tutto, è da prendere con le pinze l'episodio di oggi, perché chiaramente è cronaca più che storia, diciamo, quindi non sappiamo ancora bene. Però questo è un trend, chiaramente, e questo mette in difficoltà, chiaramente, non solo noi analisti e voi che siamo qui a commentare, ma le stesse autorità, cioè quanto è difficile poter prevedere degli episodi del genere, poter prevenire degli episodi del genere. Questo è il punto su cui evidentemente la propaganda stessa dell'ISIS o di gruppi legati, insomma, all'ISIS fanno leva, e non dimentichiamo che questa è la stessa propaganda che negli ultimi mesi i leader, diciamo il famoso Adnani, cioè il leader della comunicazione dell'ISIS, sta lanciando. Cioè, sì. Io vorrei tornare su questo, Torelli, con lei, perché in effetti mi ha incuriosito quello che lei ha detto e anche preoccupato, cioè il fatto che, banalizzo, ogni volta che c'è un potenziale attentato terroristico si cita l'ISIS, si parla dell'ISIS, fa il giro del mondo la notizia, e questa è un'operazione di marketing riuscitissima, ma ahimè, da parte proprio dell'ISIS. Ora, siccome noi tutto vorremmo tranne che contribuire in qualche modo a questo, io le chiedo, cioè a far sì che l'immagine anche dell'ISIS e dei terroristi di matrice islamica e non solo cresca, si accresca e si potenzi nel mondo, c'è un modo per sottrarsi a questo? Cioè, ci sta dicendo che c'è anche un comportamento anche nella comunicazione, potrebbe essere anche per questo che per esempio la polizia tedesca non ha usato la parola terrorismo fino ad ora, potrebbe essere questa una spiegazione? C'è un modo per sottrarsi a questa ipotesi? Beh, allora, indubbiamente sì, la sua domanda ha una doppia, diciamo, può esserci una doppia risposta a seconda del contesto che prendiamo in considerazione. Da un lato, appunto, come la comunicazione e l'informazione, più che la comunicazione, veicola certi fatti, insomma, di attualità. E da quel lato, ecco, a mio avviso, sì, diciamo, evidentemente è possibile o potrebbe essere possibile cercare di arginare un po' la propaganda dell'ISIS, ripeto, o di gruppi islamisti, insomma, legati più o meno all'ISIS, cercando di non enfatizzare troppo questo fatto. Dall'altro canto, però, qui quello che dicevo prima, è inutile far finta che ormai non vi sia una sorta di psicosi collettiva anche a livello di opinione pubblica che fa sì che è molto facile fare il collegamento diretto tra un atto come quello che abbiamo visto oggi a Monaco e che probabilmente purtroppo potrà accadere in altre parti d'Europa in qualsiasi momento e la spirale di attacchi che lì si sta messo in moto. E qui sta la chiave, appunto, vincente, tra virgolette, dello Stato Islamico. E cosa si può fare? È difficile, chiaramente, è difficile fermare questa sorta, ecco, di spirale di terrore e nella comunicazione anche che si sta creando, perché se ci riflettete, anche noi adesso, tutto sommato, senza elementi certi, purtroppo siamo qui a parlare di questo fatto, ipotizzando che sia collegato a tutto questo, e purtroppo penso sia anche normale. Io la seguo, la preoccupazione che c'è è che si alimenti questa sensazione di, certo, una guerra, siamo in guerra, vedo anche i commenti degli ascoltatori, naturalmente il nostro nemico è l'ISIS, però bisogna sapere esattamente in un caso come questo chi ha agito, perché si può trattare di, può trattarsi di emulazione di persone che non hanno nulla a che fare con l'ISIS, che semplicemente hanno agito anche per uno spirito di emulazione, perché sono folli per conto loro, e quindi il rischio è che si dia una patente anche a qualcuno che non ce l'ha in questo momento. Cristina? Sì, poi l'altra invece, diciamo, l'altra analisi che facevano alcuni proprio esperti era al contrario, cioè l'ISIS alza il tiro perché è con le spalle al muro. Anche questa, che veridicità ha questa informazione, professore? Beh, questa è una chiave di lettura che ormai è abbastanza diffusa e chiaramente ha una parte di verità, cioè se noi mettiamo insieme due fattori oggettivi, cioè il fatto che lo Stato Islamico nei territori che controlla direttamente, quindi in Siria e in Iraq, sta perdendo effettivamente terreno, che, piccolo inciso, è ben diverso dal dire che è vicino alla sconfitta, però sta perdendo sicuramente terreno, quindi questo fatto, e l'altro fatto che in concomitanza di questo trend, diciamo, sembrano aumentare gli attacchi al di fuori dei territori dello Stato Islamico e soprattutto in Europa, chiaramente fa pensare che vi sia una correlazione, cioè lì dove perdiamo agli occhi dello Stato Islamico influenza, controllo del territorio all'interno dei nostri territori, possiamo comunque però usare l'arma, appunto, del terrore vero e proprio, anche mediatico, cioè, e quindi lanciare degli attacchi al di fuori per un po' per sviare, diciamo, l'attenzione da il fatto che stiamo subendo delle sconfitte inevitabilmente militari, e un po' alzare, diciamo, il tiro della propria immagine. Dobbiamo chiudere. Grazie, certo, a Stefano Torelli dell'ISPI, grazie per essere stato con noi. Un ringraziamento naturalmente anche a Leonardo Siligato in redazione, Pietro La Corte in regia, Cristina Carpinelli che continuerà ad aggiornarvi, credo, nelle prossime edizioni dei giornali radio. E poi c'è Roberta Giordano con uno speciale che inizia tra pochissimo. Ciao a tutti, buona serata, buon venerdì, buon weekend, possibilmente da Alessio Maurizi. Ciao.